Buongiorno a tutti e bentornati a Radio Bidon. Finalmente ci risentiamo dopo un po' di tempo, ci eravamo lasciati con il Tour de France, ci ritroviamo in un momento molto più caldo della stagione, almeno caldo lo fa nella stanza in cui mi trovo in questo momento a Milano. Io sono Filippo Cauz, collegati con me sulle vie dell'internet ci sono, credo sempre da Milano, Riccardo Spinelli. Ciao a tutti. Ho preso bene la tua collocazione geografica? Sì, sì, hai preso bene, sono tornato. Speravo tu fossi ancora in vacanza per il tuo bene e speravo anch'io. Un po' più lontano, tendenzialmente credo sia in Puglia, ma mentalmente credo sia a Rio de Janeiro, c'è Leonardo Piccione. Ciao, buongiorno, sì, sono in Puglia, un po' depresso perché sono finite le Olimpiadi e oggi cercavo disperatamente su qualche canale un po' di pentathlon moderno, guarda, oppure un po' di tiro con l'arco, ma non c'è più nulla, è un momento disastroso, il giorno dopo la fine delle Olimpiadi è sempre un disastro, vediamo se mi riprendo. È peggio di quello dopo la fine del tour? Abbastanza, perché il tour sai che torna ogni anno, mentre le Olimpiadi sono 4 anni di attesa, quindi la sofferenza è maggiore. Però sentivo nelle telecronache di qualche sport improbabile che esistono anche le Olimpiadi europee, non so cosa siano, ma magari ti possono aiutare. Guarda, io ero fermo ai giochi del Mediterraneo, in realtà le Olimpiadi europee non le conosco, ma riconosco la mia ignoranza su questo campo, però approfondirò a questo punto se c'è un modo per potersi divertire anche ogni anno, hai detto? Non lo so, non ho ascoltato. Non lo sai, però approfondisco. Quindi io sono stato per 16 giorni immerso nelle competizioni olimpiche. Tu invece, Filippo, dove sei stato? So che hai fatto qualcosa di abbastanza avventuroso, raccontacelo. Ma io di avventura in realtà abbastanza poca, perché ero in furgone, però seguivo questo gruppo di... chiamarli pazzi è facile, per cui chiamiamoli in maniera... questi sognatori che si sono sciroppati 3.500 km circa in bicicletta nella quarta edizione della Transcontinental, che è partita dal Mur di Gerardsbergen, un luogo che tutti noi ben abbiamo fisso nel cuore, ed è arrivata a Çanakkale, sullo stretto dei Dardanelli, in Turchia, attraversando, io ho fatto i conti che noi ne abbiamo passati 12 di paesi, non so gli altri, anche perché poi quando si arriva sui Balcani le frontiere diventano un po' improvvise, e ciononostante ho assistito a una competizione poca, perché vabbè, chiaramente i distacchi qui si misurano sui giorni e non sui minuti, per cui è difficile seguire la competizione. Chi ma ha vinto? Una... chi ha vinto la competizione? Ha vinto un belga, si chiama Christophe Allegaert, ne ha vinte 3 su 4 di edizioni della Transcontinental, e lui ci ha messo, se non sbaglio, 8 giorni e qualcosa a fare 3.000 e... E il secondo dopo quanto è arrivato? Il secondo è arrivato il giorno dopo. Sì, il secondo e il terzo sono arrivati il giorno dopo. Il secondo è un americano, Neil, non mi ricordo più il cognome. E vabbè, il terzo Carlos Mozon. Comunque, gente che viaggiava su una media di 500 km al giorno, dormendo 2-3 ore a bordo strada. Christoph, quello che ha vinto, si è fermato 3 volte in tutta la corsa per dormire più di un paio d'ore. Immagino, conoscendoti, che tu ti sia divertito, anzi esaltato abbastanza seguendo questa corsa. Poi ci farai un racconto un po' più dettagliato di quello che hai visto, ascoltato e fotografato. Sicuramente sì, è una cosa su cui sto ancora riflettendo, perché è un modo di vivere il ciclismo che non è proprio quello a cui siamo abituati. Nel senso, il cicloturismo esiste, va bene, ma qui si parla in un qualche modo sempre di una gara, ma un modo di vivere una gara che non è certo quello che abbiamo in mente. Qui non si guarda la televisione, ma si guarda una mappa con i GPS dei singoli corridori a vedere dove si spostano. A un certo punto il primo aveva uno stato di vantaggio sul secondo, tipo quando lui era in Croazia e gli altri erano in Italia, cose di questo tipo. E non lo so, risico più che una corsa di ciclismo. Sì, o forse immagino che, non lo so, forse i primi Tour de France potevano essere una cosa simile senza la tecnologia del GPS, ma erano solo racconti con corridori sparsi ovunque, perché poi è veramente, in questo caso è veramente ovunque. Beh, qualcuno deve ancora arrivare, oltretutto. Qualcuno deve ancora arrivare. No, sì, recuperare questa dimensione del racconto, di poterlo fare anche senza le immagini, è chiaramente una cosa che ci esalta e ci piace. Quindi seguiremo, aspetteremo con ansia il tuo resoconto su questa esperienza. Di altri resoconti che ci sarà bisogno di fare, tanti ne abbiamo fatti un po' sulla nostra pagina Facebook, un po' parlando al bar o in spiaggia con gli amici, sono quelli su queste Olimpiadi. Torniamo nella psiche di Leonardo delle ultime 2 settimane, torniamo anche in quello che è stato poi l'evento chiaramente sportivo di riferimento a livello mondiale del 2016, le Olimpiadi di Rio, che qualcuno ha vissuto più intensamente, qualcuno più distrattamente, e io chiedo a voi voi, perché io anche per motivi stradali appena citati non sono potuto stare troppo sul pezzo, chiedo a voi di dirmi cosa vi portate a casa da queste Olimpiadi. Sì, è stata una grande edizione dei giochi olimpici, quella di Rio, un po' anche dovuto al fatto che ci aspettavamo forse qualcosa in meno, i presupposti non erano granché, l'organizzazione ha lasciato a desiderare, specialmente nel pre-Olimpiadi che durante le Olimpiadi, quando tutto è filato abbastanza per il verso giusto, e poi dal punto di vista agonistico e sportivo abbiamo assistito a prestazioni enormi di sportivi, di atleti che nel loro campo hanno davvero fatto registrare prestazioni storiche, record del mondo battuti un po' ovunque. Mi vengono in mente Bolt, che non ha battuto record però ha fatto la storia vinta, Phelps che è tornato e di nuovo ha battuto i suoi stessi record di ori olimpici vinti, ma più in generale grandi atleti, grandi vecchi dello sport, poi parleremo anche del ciclismo, che hanno concluso la loro storia sportiva a Rio, quindi un'atmosfera generale molto positiva e che certamente ricorderemo, un'edizione dei giochi certamente da ricordare dal mio punto di vista. Veniamo al ciclismo ora, non ce ne vogliano gli appassionati di altri sport, ma questo è l'ambiente da cui ci abbeveriamo regolarmente, un ciclismo che ieri si è concluso con la prova di mountain bike e il bellissimo duello tra Kulavi e Schurter che ha premiato il secondo, lo svizzero campione olimpico. C'era grande attesa per la prova di Peter Sagan, che ha sicuramente mostrato le sue doti in partenza, partendo dal fondo e rimontando immediatamente sulla testa della corsa, poi una foratura lo ha penalizzato, francamente dubito che con un livello di corsa così alto come è stato sarebbe riuscito ad impensierire i primi. Comunque Sagan ha messo la sua firma anche su queste Olimpiadi, anche se a modo suo e non con un risultato, e niente, un ciclismo che ha il privilegio, credo unico, di essere solo sport a coprire per intero il panorama olimpico dal primo all'ultimo giorno. Dell'ultimo abbiamo appena detto, a questo punto torniamo indietro, indietrissimo, al primo giorno, alla corsa in linea maschile, che è sicuramente quella che tutti attendevano maggiormente, di cui più si è discusso. Io personalmente ammetto di averne visti in diretta solo gli ultimi sviluppi, gli ultimi chilometri in una stanza d'albergo a Mostar, poi l'ho recuperato il torrent in questi giorni, ma insomma chiedo a voi che l'avete vissuta in diretta, magari Riccardo ci sai dire qualcosa in più. Sì, io non l'ho vista in realtà neanch'io, perché ero in Sicilia un tour on the road, l'ho sentita alla radio tra la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi, ho provato con degli streaming ma erano pessimi e ho sentito i telecronisti molto eccitati dalla prova dell'Italia e poi la caduta di Nibali che ha disperato tutti, però ha vinto un altro grande, Avermaet, che si è dimostrato ancora una volta competitivo su salite magari più adatte agli scalatori come al Tour de France. E poi mi sono molto emozionato per Elia Viviani, che ha vinto l'Omnium, una medaglia storica, perché veniva da 20 anni in cui non vincevamo questa specialità. Emozionante anche perché veniva da due delusioni, quelle di Londra e sia alle Olimpiadi scorse che mondiali per Elia Viviani. Sì, va anche detto che al netto del nostro interesse specifico per il ciclismo, proprio dal ciclismo sono venute forse le più grandi emozioni. A livello emotivo il ciclismo è stato fortissimo a questi giochi, perché ripeto, abbiamo avuto Cancellara che ha vinto la sua ultima gara probabilmente importante della carriera, Wiggins che è tornato su pista e anche che egli ha concluso con un altro oro nell'inseguimento a squadre. Abbiamo avuto Christine Armstrong, che ha vinto a 43 anni il terzo oro consecutivo nella gara a cronometro, e poi le due gare in linea, sia la maschile che la femminile, che obiettivamente, per quanto non siano andate bene per i nostri colori, almeno per quella maschile, perché poi abbiamo vinto il bronzo con Elisa Longoborghini in quella femminile, però sono state belle, sono state tese, sono state combattute, imprevedibili, un po' grazie al percorso o per colpa del percorso, dipende dai punti di vista. E poi tante altre storie, mi viene in mente Jason Kenny, Laura Trott e Elia Viviani, cosa possiamo dire? Abbiamo già detto tanto, anche se non ci stancheremmo di parlare di quell'oro. Sì, io credo che il ciclismo, anche a livello, anche per noi italiani, quella medaglia di Viviani sia stato il punto più alto, insieme forse alle prestazioni della nazionale di pallavolo, il punto più alto di tutta l'Olimpiade azzurra, secondo me. Sì, viene da augurarsi che questo punto sia riconosciuto anche al di fuori della nostra ristretta cerchia di appassionati, perché sappiamo quanto la pista in Italia abbia bisogno di sostegno, abbia bisogno di successi, e il materiale umano abbiamo visto che c'è a queste Olimpiadi, ora speriamo che ci sia anche quello tecnico, mettiamola così. Volendo chiudere un attimo un ragionamento sul ciclismo alle Olimpiadi, o se volete anche non solo sul ciclismo, ma resterei come sempre nel nostro campo, se doveste, cioè pensate tra l'estate prossima cosa vi ricorderete delle Olimpiadi di Rio 2016, cosa direste? Nel ciclismo l'inseguimento a squadre di l'oro di Wiggins, l'ultima prova dell'Omnium, perché è stata spettacolare, con Cavendish, Klug, Gaviria, diciamo grande spessore tecnico. E invece per non parlare del ciclismo, Tania Cagnotto mi ha emozionato molto col bronzo, sinceramente. Sì, io del ciclismo ho già parlato in abbondanza, degli altri momenti in particolare per quelli che ci riguardano come Italia forse menzionerei Niccolò Campriani, che ha vinto due ori in uno sport che molti non considerano tale, ma che lo è a tutti gli effetti, che è il tiro a segno, ed è diventato una leggenda del suo sport a meno di 30 anni. Quindi due ori di Campriani, un momento secondo me abbastanza, anzi del tutto importante e fondamentale di queste Olimpiadi italiane, quantomeno. Sì, io penso che invece non riuscirei a uscire dal ciclismo, ma non tanto per questa mia deformazione mentale, quanto perché penso che quello fatto vedere dal quartetto inglese dell'inseguimento a squadre sia una performance anche da un punto di vista sportivo storico che ha pochi uguali. Credo che in queste Olimpiadi forse i 400 metri di Van Niekerk in atletica sono l'unica altra impresa da un punto di vista puramente tecnico-sportivo che possa avvicinare quello che hanno fatto Wiggins e compagni. Sì, compagni che erano Clancy, Burke e Dowell, diciamolo, se no sembra solo che ci sia sempre solo Wiggins. Fatto benissimo a ricordarli, tra l'altro sono state anche le Olimpiadi della Gran Bretagna, che è riuscita a portare a casa un bottino di medaglie superiore addirittura a quello che avevano ottenuto nelle Olimpiadi di casa di Londra, e soprattutto la pista è stata, come ormai è tradizione, diventata tradizione perché prima non lo era, fonte di successi in serie per gli inglesi, che hanno fondato proprio sul ciclismo su pista e la loro rinascita olimpica. Ormai sono una realtà davvero assoluta e sono arrivati nelle primissime posizioni in tantissime discipline. E direi non solo olimpica, visto che ci eravamo lasciati con un inglese in maglia gialla sul podio di Parigi, inglese anche se con una storia abbastanza poco inglese alle spalle, come Chris Froome, e forse grazie a Chris Froome possiamo entrare nel nuovo argomento più di stretta attualità da un punto di vista ciclistico, che è la Vuelta a Spagna, iniziata sabato, in cui Froome c'è, inseguirà un bis, non lo inseguirà, non lo sappiamo, per ora non si sa. Però è partito bene, perché già nella cronosquadra la Sky è riuscita a fare il miglior tempo vestendo la maglia di leader con Peter Kenneth. E perché non l'ha vestita Froome, secondo voi? Ma io credo che sia un riconoscimento al lavoro di Kenneth e al fatto che sia stato forse quello che si è impegnato di più, la butto lì. Può darsi, probabile, non lo so. Io mi sarei aspettato un Froome in maglia rossa già dalla prima tappa, poi vedremo con chi se la giocherà questa Vuelta. Di certo la Vuelta arriva in un momento che peggiore non si poteva trovare, non rispetto alla Vuelta in sé, ma rispetto al fatto che quest'anno si trova incastrata tra un'Olimpiade che finisce sovrapponendosi addirittura alla corsa spagnola e un Mondiale che invece viene spostato in metà ottobre, per cui non c'è neanche più l'effetto di Vuelta rampa di lancio per il Mondiale. Il risultato, secondo me, soprattutto in Italia, perché non ci sono neanche protagonisti italiani, è che questa Vuelta rischia di passare davvero sotto silenzio, quasi nessuno ne sta parlando. Sì, in realtà credo che se ne parlerà, perché comunque, come ormai accade da diversi anni, tutti i migliori corridori da corsa e tappe per qualche motivo si ritrovano poi alla Vuelta. Il punto problematico per la Vuelta è che nessuno la fa perché è il suo obiettivo stagionale, nessuno dice quest'anno punto la Vuelta, ma tutti la considerano come una opzione secondaria o per salvare qualcosa che non è andato giusto, come durante la stagione, come è successo per Contador, oppure per tentare l'impresa del due grandi giri vinti consecutivamente, come quella di Froome, che proverà a fare Froome. Leggevo qualche giorno fa su Cycling Tips, credo, un'opinione molto interessante sul fatto che la Vuelta, in questa situazione in cui è snobbata un po' da tutti o ritenuta, ripeto, soltanto come un'opportunità di recupero per qualcosa che non è andato bene, dovrebbe pensare a ristrutturarsi e ripensarsi, come per esempio una corsa a tappe dove un corridore come Van Avermaet o Sagan o Alaphilippe possa provare a vincere un grande giro, e quindi magari pensare a un percorso totalmente diverso rispetto a questo, fatto di rampe di garage un po' ovunque, ma un percorso che possa permettere di allargare la competizione per la vittoria finale della corsa a dei nomi non i soliti, quindi non Froome, Quintana, Contador, Nibali, ma allargare, ecco, la competizione per la maglia rossa a dei nomi che possano far divertire e farci vedere in un'ottica diversa questo terzo grande giro dell'anno. Non so cosa ne pensate. Gli organizzatori non hanno pensato a questa cosa quest'anno, perché quest'anno certamente sono... no, però potrebbe essere potrebbe essere un'idea. Quest'anno però non ci hanno pensato, anzi hanno fatto una vuelta durissima, un sacco di arrivi in salita. Infatti molti velocisti non si sono presentati al tutti i velocisti partenza. Non si sono presentati, non ce n'è uno, ci sono Bonifazio e Hart, e quindi sì, la vuelta ha un po' di tempi e delle problematicità di tempi e di organizzazione, però d'altra parte questi problemi possono poi sfociare in corse interessanti, imprevedibili, e diciamo senza il vincitore annunciato o robe simili. Sì, io ho qualche dubbio sul suggerimento che fosse di Cycling Tips o di chi altro, perché penso che poi le corse a tappe abbiano un parco pretendenti che è giusto che se le giochi. Di certo, scusate se per una volta mi sbilancio in maniera più netta che mai, credo che il percorso di questa vuelta sia il più brutto percorso di una corsa a tappe che abbia mai visto. Poi non ho grande memoria, perché io mi ricordo quello che fanno i protagonisti e non mi ricordo il percorso, ma a guardarla adesso, quello che ci aspetta, mi viene abbastanza il terrore. Mi sembra una corsa disegnata tutta in fotocopia, con questi piattoni che finiscono con gli ultimi 5, 3, 2, 1 chilometro al 200% di pendenza, completamente mortificante dal punto di vista della fantasia dei suoi protagonisti. È veramente una corsa dove non so dove si possa inventare qualcosa. Ci sono due tappe di montagna, il resto sono delle tappe con l'arrivo in salita e nulla più. Vedremo, speriamo che le crono facciano un po' di casino, magari quello. No, per chiudere il discorso che facciamo sulla Vuelta, aggiungo soltanto che la proposta si giustifica col fatto che questo è un momento storico per la Vuelta e per il ciclismo in generale, in cui fare un esperimento diverso potrebbe avere senso, anche perché ora hai questo fenomeno del ciclismo mondiale, forse il più grande degli ultimi 30 anni, che si chiama Peter Sagan, e dargli una possibilità, un anno, non dico il prossimo fra due anni, comunque un anno la Vuelta, di provare a metterlo tra i contendenti per la vittoria finale, può permetterselo la corsa spagnola. Certo, il Giro e il Tour non possono, i percorsi delle corse a tappe sono fatti appunto, non sono fissi di anno in anno, ma sono pensati appunto per essere modificati in base alle esigenze. Chissà che non possa accadere, a me non dispiacerebbe, mettiamola così. Di certo questo sarebbe stato l'anno ideale, perché appunto con la Vuelta schiacciata tra l'Olimpiade e neanche più la necessità di correre per preparare il mondiale, era l'occasione buona, esatto, per provare qualcosa di nuovo. Invece hanno fatto sempre la stessa cosa, come la fa Valverde, la stessa cosa, che corre la terza grande corsa a tappe in stagione, e così ho ricordato Valverde anche in questo episodio, e vai e come la fa Adam Hansen, che corre la 16ª corsa a tappe consecutiva. Speriamo che vinca Hansen a questo punto, con una fuga bibbone, non lo so. Ma chi sono invece i veri favoriti per la vittoria finale? Contador pare essere quello che l'ha preparato un po' meglio degli altri, perché si è ritirato prima degli altri durante il tour, però non è partito benissimo con la cronosquadra. Froome, Quintana, lo stesso Valverde, se non avesse corso Giro e Tour forse sarebbe lui il vero grande favorito con un percorso così. Beh, questo percorso secondo me con un Froome fresco sarebbe un percorso perfetto per lui e sarebbe ottimo anche per Chaves. Chi invece non si troverà forse perfettamente a suo agio, ma sono certo che ora tutto il nostro tipo è Kreuzweg. Ovviamente. E poi io direi di stare molto molto attenti a Miguel Angel Lopez, colombiano della Astana, che ha, se non sbaglio, 22 anni. È difficile che un 22enne vinca una corsa a tappe, però ha uno squadrone alle spalle e questa, ripetiamola, è una corsa a tappe dove non c'è il tappone, dove crolli, per cui chissà, secondo me un podio se lo può giocare. Una vuelta che noi non seguiremo con l'assiduità che abbiamo avuto durante il Giro d'Italia e Tour de France e in un qualche modo anche Olimpiadi, qualcosa sicuramente lo diremo anche di questa vuelta. Nel frattempo, se vi manca l'assiduità con cui abbiamo seguito una corsa, c'è uno strumento per ricordare le nostre voci sul Tour de France, vero Leo? Sì, da qualche settimana già è disponibile il nostro ebook che abbiamo realizzato sul Tour de France 2016, è disponibile in versione digitale con tutti gli indirizzi sul nostro sito bidonmagazine.org. Tra qualche giorno, forse proprio fra qualche ora, sarà disponibile anche la versione cartacea. Ce l'avete richiesta, ci abbiamo lavorato tra una gara di nuoto e l'altra, ecco, apro e chiudo parentesi, grandissimo Paltrinieri, l'ho dimenticato tra i momenti delle Olimpiadi, chiusa parentesi, tra una gara di nuoto e l'altra abbiamo lavorato alla versione cartacea, sarà disponibile in questi giorni, è una versione pensata apposta per la carta, quindi con un'impaginazione un po' diversa rispetto alla versione digitale, con le foto, con le immagini a colori, quelle rielaborate per noi da Daniele Cavalieri, e poi i racconti che noi abbiamo provato a tirar fuori dalle 3 settimane di tour, gli articoli di approfondimento, insomma quello che già sapete, di cui vi abbiamo parlato altre volte, però in versione da conservare se ne avete voglia e da sfogliare con le dita su carta anziché sul vostro dispositivo digitale. Allora compratelo, facciamo questo piccolo spazio pubblicità e concludiamo qui, nel senso che noi andiamo un attimo a riposarci dopo questa orda di gare che è stata l'Olimpiade, andiamo a concentrarci sulla Vuelta, ma continuiamo a seguire quello che accade nel mondo del ciclismo e dintorni, e lo continueremo a fare anche in radio. Purtroppo è ancora in spiaggia invece Dino Zandegu, che non è potuto, non l'avete sentito in apertura, è mancato e mancherà anche nella sigla, è mancato, scusatemi. È mancato. Poverino, no. Avete sentito che in apertura non ha cantato la sigla come ci aveva abituato, non lo farà neanche con la sigla di chiusura, ma chiudiamo salutando Riccardo Spinelli. Ciao. E Leonardo Piccione, ci risentiamo su Bidon e su Radio Bidon. Ciao, alla prossima. Sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire.